attimo, mi sono collegato tranquillo, mi sono detto tranquillo. Ma io poi mi sono andato con la gente, ho aiutato mia moglie a sistemare tutto, qua avevo un casino niente. La prima volta che mi ha fatto il casino. Perché a me ci sono fai i tavoli in cucina, fammi lì che giocano, mi sono la roba in terra. Beh, allora cosa è successo? Mi hanno regalato un elicottero telecomandato, però è a coso, a infrarossi. E l'ho portato fuori per vedere se funzionava. E siccome c'ha le luci, no, questo cavolo di elicottero, quelle di profondità e quelle che lampeggiano. Ecco, lo faccio salire in alto, che invece dopo 10 metri cazzo ha perso, cosa ne so, si è andato il titolo, il cagoso. Cazzo, si atterraia, il cagoso abbassa la mente, se lo butta in casino, cazzo, e di una campagna, cazzo, ha attraversato alberi e cose, si è fatto, cazzo, un tiro metro a piedi per recuperarlo. Questo col vento va a usare l'elicottero, ha una ventata si è buttato, in cui è stato tipo cinesi nel vento, allora. Fanno fare un chilometro e mezzo, ma... Oh, questo si solleva, in poche parole, siccome è piccolo piccolo, e c'ha 10 metri di raggio, sia in orizzontale che in verticale, poi 10 metri, e invece questi infrarossi perdono la, cosa ne so, l'orientamento, cosa ne so. Si è accelerato da solo, cazzo, si è lì per alto, ha sorpassato case, ma la risulta, cazzo, sono dovuto andare una pila in mezzo a un fango a recuperare. E meno male che sono rimaste le luci accese, e l'ho trovato per quello, se no l'avrei abbesso. Ah, ma ok, non sono finito di cosa mi spogliano. Non sono quelli, però ti devi usare delle giuste giornate, capito? Se no ti serve un casino vento. Quello lo sai cos'è bello, magari una giornata di sole quando non c'è il vento, te lo porti lì a piantare le segne e ti diverti un po'. Ma così giornate del vento, gatto, quelle si sono levate, passate a applicare il vento, bigliano un po' cosa si ne andate a far culo. Ne che prendi un po'. Sono stato fortunato che si poteva entrare dove non ci sono i cani, a chi si era entrato nel nemmeno del cane, un cazzo è entrato a pigliarlo. Tanto da sommarsiti che si chiama, puzzinosi dove vengono. Perché io qua a fianco a me abita cosa, molti nei due, capito? Tutto il recintato, cioè ci sono due ville, cazzo, ma fai che ti chiami, te qua, hai da pigliare la cosa. Scusa, Letta, cosa c'ha pure di quei cani pastori tedeschi? C'ha tre Rottweiler maschi. Che cazzo, guarda un caso. E poi al buio così, appena bevete, ne proia. Brutto, brutto. Tu ti stai morendo vicino, sai, ma Ugo o l'altro? L'altro c'è un altro, no, no, non è Ugo. È il cugino. Ah, ho capito, ho capito. Quello che aveva la discoteca, la? Positivo, positivo. Quello lì è, c'ha la discoteca, c'ha anche i negozi a Sassari di abbigliamento. Quello è Franco. No, Silverio. Ho capito. Ma perché non si chiama qua Franco, quello che sono degli strateghi? Ma infatti io ti ho detto che dentro qua ci sono due ville, una di uno e una dell'altro, capito? Ah, chiama chiama. E sono tutte e due nello stesso terreno, hai capito? Sono una vicino all'altra. E niente, poi c'hanno tutto un bel terreno dietro, con tutto prato verde, campo di cose, la tennis, piscina, tutta questa cosa qua. Chiama, chiama. Proprio confidante con me. Vabbè. Allora, quando si fate il bagno, li vedi? Ma quando si fate il bagno vedo, non l'ha baito. Quando si fate il bagno, i suoi e i nebudici. Beh, ci mancherebbe altro. Vedo se ne può fottere una scarpetta, ma di... Le figlie sono buone e forti. Non posso immaginare. Di senza macchina, tutti in fuori strada, insomma, Mercedes. Ehi, non c'è le macchine di là, pure. Quello già non manca. Fai conto che ci sia almeno 20 anni questo giardiniere che tutti i giorni ne tiene il prato, fa tutte le cose della campagna, va? Gama. No, le denate non rimangono, che c'è poco come sicuro. A noi puoi rimarcare le denate, no, no. Ma noi chiamo meglio Eddo, non è compreso. Capite, loro sono con la busta sotto il naso. Noi ci arrangiamo anche con un pezzo di pane e formaggio. Così è un po'. E mi accontento anche di uova. Infatti io per non sbagliare, lo so che ho fatto, mi sono messo 10 galline, almeno le uova me le mangio tutti i giorni, se non rimango senza mangiare. Fai bene, dovrebbe essere un paio di agnelli che ricomprare, concetto, così almeno c'è la carne, per il bello per le tante. Buongiorno a tutti. Buongiorno Mario, sono il Turri, non sono a casa, mi sono a Ussi. Sì. Ehi, a non ti sente se ti vedo a me? No, io ho visto la modulazione, il computer attaccato, mi sembra un pugno. E niente, no, sì. Sì, a casa di Giovanna sono. E io sono contento, va, mi fa piacere. Ma che a me è caro. Ti vedo, vero? Vai, mamma mia, se non aveva che ha fatto mangiare. Signore Billy, riprendo io, ciao Mario, ben entrato, buongiorno e tanti auguri. Riprendo io che faccio un po' di bianco qua, che iniziamo a sistemare un pochino, là. Che fra un po' arrivano gli ospiti di nuovo e torna un casino netto. Ciao Pompone, ciao Mario, ciao Falchetto, là, se capita riprendo dopo, se no tanti auguri ancora. Scappa dai, saluto di nuovo a te come va, dai, è buon tutto, dai, riprendi Mario. Scappa, buona carica, buon tutto e auguroni a te e al tuo QRA familiare. Scappa gappa, alla prossima, vai buon poco. Sì, ciao, ma che mi accendiamo, buona carica, buon tutto e auguroni di cambiare. Andare. E Luca, tutti i due, ma che prova a chiamarlo? Dariello. No, sta mangiando Luca, riprendi Mario. Kappa, va bene. E beh, come mi ascolti lì a Ussi, Pupucu, ci arrivo? Sì, te lo credo. Ciao, la sera l'ha fatta forza piazzata. Cambia le 9 alle 10, per quanto fa il petto al vino. A bomba. Sono contento che arrivo anche a Ussi, hai visto, senza fare niente, tutto come era prima. Sì, vabbè, arrivi bene. Perfetto, diciamo, la magnetica è stata fuori, del Tarantino. Quindi facendo con la magnetica della Inter. Questo visto già va bene. Dategli un'antenna lì da tua sorella, Pupù. Grazie, sì. Ha sentito il passaggio di Mario? Ripetiglielo Mario. Ho detto a piazzagliela lì dalla tua parallela all'antenna. Almeno anche lì la sentiamo. Ehi, glielo metto qui. È una camera da bambini, c'è la barattina. Poi lo so se lui deciderà di mettere da un'altra parte in vicino. Va bene, può cambiare. E piglia qualche, lungo soffitto. Papà, ma poi andando a caricarmi. Dopo la caricare, insomma. Riprende male. E mi pensa va a entrare a palcone. Coca-Cola! Sono vivo, eppure ci manca frequenza, di la verità. No, era troppo sboccato parlando, ma era sempre... Mi sembra troppo parolaccio. Ma poi per il resto già era uno spasso. È vero. Non è che era... qualcosa che sapeva che a volte si metteva a dire parolacce. E niente, ma... croce della frequenza. Già veniva provocato pure, là. Ah, beh, quello sì, Capito, Mario? Perché io ci ho parlato tantissimi anni fa, quando lui era in frequenza, e mettendo su era quello lì, della calzetta e compagnia bella, poi del resto lo mordeva, dai. Cappa, no, ma io già l'ho conosciuto anche di persona, non era quello lì il problema. Infatti se l'hai conosciuto di persona, penso, già veniva stigato dalle persone a parlare male, dai. Qualcuno è andato e me l'ha buttato giù l'antenna. Te stava a nuovo, dai. Vabbè, anche un gesto non va bene quello, dai. La gamba, vabbè. A me mi era fatta fucilare la prima antenna che ha giù buscio. Penso a poco, poi io. Era poco, un ammalettone è andato da razzo. No, proprio che pari due. E dice si è allontanato un attimino. Popo unio. E carichendo le mani, carichendo i voti, Sarò carregato. Amico, forse mi può piacere il tondo che ha brincato. Capito, lui. Gamba. Gioia. Un biglietto di strada oggi, tutti a nanna, tutti a nanna ancora. E ancora un biglietto vado già in campo. A punizione con Gabamuglio, sia. Pappa Gamba. Io qui. C'è una marea di carretti, cazzo, il giorno che viene Pupuglio qui si spaventa, dice, cosa cazzo hai fatto, una centrale nucleare? Beh, sembra una busta, ma la dovremmo pure, ma la posso tutto. No, io ho collegato già tutto, c'è da controllare qualche apparato di quelli che ho trovato, perché qualcuno ho provato io, ma magari non c'è la attrezzatura giusta, ho visto che non accendono, ce ne sono tre o quattro che non accendono. Sì, magari non vale nulla, l'ho preso, bisogna... già li controlla con furia, fai sommigliare i problemi. Se no rimane negozimi, intanto non li tratto mai. Ah, beh, se non li tratti andavano a te, ma come ti la figura giù, vivi, li andavi. No, perché io ogni tanto qui accendo tutto l'apparato di gerenti lì, ma le dai bulli da dare, vabbè che non ci fa fare bulli da dare a canna, ma no che quando accendo tutto ma le dai bulli da dare. E se questo non aiuto l'apparato? E ce ne sono una ventina, senza quelli portatili. Allora bulli avessi due alberi da dare, vici le vivi. No, ma li accendo giusto per tenerli in tensione, non è che li accendo così, per modulare, c'è questo mi avanza. Sì, caparoggio, bene, quindi venisce la matta buro. Infatti lo accendo così giusto per bellezza di vederli accesi ogni tanto. Caparoggio, è fa piacere, dai. Cappa di positivo. E poi ce ne sono verdi, rossi, arancioni, giallini, biancolini, e tutto il colore per me. Allora proprio vero vai l'acqua di Natale a vino. Questo qui che ho, cioè per questo metro che è azzurro, poi c'è un Switzer, giallo e rosso. Poi c'è coso, l'altro ice che è piccolino, che rimane giallo e verde. Poi ne uno che va sull'inumazione, ruia. Ah, vedo tutti i colori della baita. Poi viola, Cavolo, però adesso sto notando una cosa. me in molti modi. C'è lo smitter che è acceso, però il numero del canale non si è acceso. Aia. Ciao.